Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ogni anno, il 26 di dicembre, parte dal porto di Sydney e va verso Hobart una regata che è una regata famosissima tra i velisti, soprattutto tra i velisti australiani e così, per eco anche tra i velisti di tutto il mondo. Si chiama Sydney Hobart questa regata, perché semplicemente prende il nome dei due posti da cui si parte e da cui si arriva. È una roba che dura 2-3 giorni, sono 630 miglia nautiche, sono più o meno 1000 qualcosa chilometri in termini appunto stradali. Nel 1998 però parte questa regata da Sydney con 115 imbarcazioni. Ne arriveranno pochissime perché si scatena una tempesta incredibile che fa delle vittime, soprattutto fa un sacco di disastri tra le barche, ma soprattutto tra le persone che si trovano all'interno di quella regata. È stato scritto un libro su questa storia che si intitola Verso la tempesta, proprio perché l'ha scritto Martin Daggart, che è un velista australiano e soprattutto uno che si occupa di vela, e l'ha scritta in questo modo perché questa tempesta è annunciata e i velisti decidono comunque di partire. È una roba che i venti raggiungono una forza che attorno agli 80 nodi, che sono qualcosa tipo 140-150 km all'ora con onde altissime. Vi cito questo libro perché la storia che vi racconto oggi, che abbiamo recuperato per il meglio di Voi siete qui, parla di una persona che esce da una tempesta. E quando ho letto questa storia, che è stata scritta da Massimiliano, mi è venuta in mente questa storia, anche se non parla di vela, anche se non parla di regate. Parla di un uomo che sta attraversando l'Africa con una motocicletta, con un gruppo di amici, tutti quanti in motocicletta, e a un certo punto è come se entrasse e allo stesso tempo uscisse da una tempesta. Si chiama appunto Fuori dalla tempesta, il racconto che ci ha mandato Massimiliano, ed è una storia bellissima, una storia commovente, la storia di un uomo che semplicemente si accorge mentre sta facendo un tragitto che le cose prima peggiorano e poi migliorano. Potrei dirvi che è una metafora della vita, ma non dico queste cose, quindi fate come se non l'avessi detto. Voi siete qui, @radio24.it, per continuare a mandare le vostre storie. Noi siamo qui per tutto il mese di luglio con le migliori storie che ci sono arrivate. Adesso vi riracconto quella di Massimiliano, e più tardi ve ne racconto un'altra che invece ha a che fare con tutte quelle storie che segnano un confine tra un prima e un dopo. Ma prima, Fuori dalla tempesta. Ci alziamo molto prima dell'alba e cominciamo subito a preparare le moto. Ieri l'idea di andare a vedere l'alba nel deserto della Mauritania mi sembrava un'ottima idea. Adesso però mi dico che di albe ne ho già viste un sacco, che tanto sarà uguale a tutte le altre. Partiamo, e per uscire dalla città già a quest'ora incontriamo un traffico intenso e caotico, come solo questi posti in Africa possono esprimere. Anche a quest'ora la povertà che vedo intorno mi lascia senza fiato, e i bambini sono già in strada, in mezzo ai rifiuti. Ne usciamo, vediamo l'alba con lo sfondo del Sahel. Bella, sì, ma la sveglia alle 5:30 ancora pesa. Vado in moto perché mi piace da ormai tanti anni. E un giorno ho scoperto che andare in moto anche in paesi un pochettino più lontani e un pochettino più rischiosi non era una cosa impossibile, ma era una cosa effettivamente banale alla portata di tutti, e da allora ho iniziato ad andarci. Attraversiamo villaggi e piccoli paesi come ormai ne abbiamo visti a decine. Poi a un tratto io comincio a stare male. Siamo rimasti in tre e ci siamo allontanati dagli altri. Sento le mie pulsazioni salire. Merda, un attacco d'ansia nel mezzo del Sahel in Mauritania poteva evitarmelo. Invece sarà il malarone che ho iniziato a prendere qualche giorno fa, saranno i miei trascorsi, e invece quel malessere arriva. Torno indietro, finisco sdraiato sul rimorchio del nostro mezzo di assistenza, con gli amici che mi misurano la pressione. Un'oretta di sosta, le voci amiche dei miei compagni di viaggio, e sto un po' meglio. Meno male, ripartiamo. Vogliamo arrivare a Diama per attraversare la frontiera ed entrare in Senegal. Lasciamo la strada e prendiamo la pista di sabbia sulla destra, e dopo 5 km incomincio a pensare di non riuscire ad arrivare alla fine della pista. Il fondo è sabbioso e la mia moto non è proprio adatta a guidare qui. E poi io sulla sabbia non sono capace. 10 km, per ora nessuna caduta da parte mia, mentre i miei compagni sono già tutti ormai coperti di sabbia. Io però sono sfinito. Chiedo quanto manca nel mio francese stentato a un camionista che passa di lì. altri 60 chilometri, mi dice. Non ce la farò mai ad uscirne. 20 chilometri, la strada migliora. Resta la sabbia, ma più compatta, e riesco a tenere un ritmo. Poi, finalmente il percorso inizia a scorrere. 35 chilometri. Davanti a noi un posto di blocco dei militari, l'ennesimo. Ci avranno fermato almeno 100 volte in due giorni. Davanti un dosso di un paio di metri di terra rossa. Alla mia destra la baracca del posto di blocco e la sbarra che ci ferma la strada. Prendiamo a destra e subito saliamo sopra al dosso e lo scenario cambia radicalmente. Il dosso in realtà è l'argine destro del fiume Senegal e le acque calme brillano al sole. Alla nostra destra il parco nazionale di Ualing. Nessuno di noi se lo aspettava e la sorpresa è tanta. Procedo, il fondo è duro e su questo sì che so guidare. La moto vola leggera e trova un ritmo perfetto. Alla mia destra fenicotteri e aironi spiccano il volo a centinaia, sono bellissimi. E ormai ho dimenticato le difficoltà della giornata. Ci sono solo io, la moto, il parco e gli uccelli. Non sento fatica, non sento più dolore alle gambe, non sento più il mio corpo. Quando tre facoceri fuggono dai cespugli sul fiume e si lanciano dentro la palude, io non riesco più a contenere l'emozione. Dalle fronde sulla riva del fiume sono partiti i facoceri. Il primo mi ha attraversato la strada, un altro si è messo a correre accanto a me. E per me è stata un'emozione incredibile. Passare dalla fatica che avevo fatto finora, dal panico della giornata, arrivare in uno scenario bellissimo, arrivare poi dove vuoi andare, lì che sono quelle situazioni che cerchi e il motivo per cui vai. Ripensa un anno fa, quando ero ricoverato in ospedale. Ripensa a 2 anni fa, quando per la fine di un amore credevo fosse tutto finito. Ripensa a 3, 4 anni fa, quando per un'altra malattia non avevo prospettive e la vita mi sembrava vuota. E penso che tutto è veramente lontano. La distanza non sembra calcolabile in anni, ma in vite e persone diverse. Sembrano i ricordi di un altro. Non riesco a credere di averli vissuti e di essere ora qui, su una moto che corre su un sogno ai confini con il Senegal. Sono felice, ebro di gioia. Sono consapevole di essere cambiato, di essere cresciuto e di vivere ora una vita piena, degna di essere vissuta. Piango nel casco senza riuscire a controllarmi e nemmeno mi rendo conto di essere arrivato alla fine. Il guardiano del parco ci chiede dei soldi per il passaggio. Io so solo che piango e lo abbraccio e lo ringrazio. This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Remember the time you drove all night just to meet me in the morning? And I thought it was strange, you said everything changed. You felt as if you just woke up. And you said, this is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you. But now I don't care, I could go anywhere with you, and I'd probably be happy. So if you wanna be with me, with these things there's no telling, we just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery. Besides, maybe this time it's different. I mean, I really think you like me. Il racconto di Massimiliano, anche se è in moto ed è nel deserto, assomiglia a quelle di qualcuno che è uscito da una tempesta. Io non ho una moto, cioè non ce l'ho più, me l'hanno rubata. Ho solo una Vespa e non la uso nel deserto ma per le strade di Milano. Però leggendo la sua emozione per essere uscito stanco ma tutto d'un pezzo, mi è venuto in mente un episodio che mi è accaduto non sulla sabbia ma sull'acqua, qualche anno fa. Ero in barca a vela, ero da solo e improvvisamente il tempo è peggiorato. Ho paura. Non è facile ammetterlo, ma è proprio così. La tempesta è arrivata. Il bollettino l'aveva prevista, ma alla fine non è mai come te l'aspetti. La paura invece non arriva di botto. È lenta la paura. Senti che sale e non puoi bloccarla. È come il latte che si scalda nel pentolino. Quando comincia a montare non lo puoi più fermare. Anche se spegni il fuoco, sai che trascimirà e finirà sul fornello. Il vento soffia così forte che la barca è tutta sbandata su un lato. Il mare continua a salire in coperta e spazza via tutto quello che trova. Io sono legato al timone con la cintura di sicurezza. Seguo la bussola perché il buio mi impedisce di vedere oltre la barca. L'unica cosa che posso fare è concentrarmi sulla rotta. La paura però rimane lì, in attesa. E non appena mi distraggo, si fa sentire. La paura lavora per sottrazione. È come se ti facesse una lista, un elenco di cose. Tutte le cose che non potrai più fare o le persone che non potrai più incontrare. Sì, la paura è l'elenco di cose che ti mancheranno e che ti piacevano più di quanto ti immaginassi. C'è talmente tanta acqua che non capisco nemmeno se piove oppure no. Faccio fatica a tenere gli occhi aperti perché il vento nebulizza la cresta delle onde e me lo spara negli occhi. Ho la sensazione che non ce la farò. No. Tanto vale lasciare perdere. Sedermi qui, al freddo, e lasciare che succeda qualcosa. Che qualcosa succederà. La tempesta non molla. Lo sto facendo io, però. Poi, all'improvviso, cambio idea. Non so perché, ma cambio idea. Provo quasi vergogna ad aver pensato di cedere. All'improvviso penso che no, che ne uscirò. Penso che ne uscirò e quando ne sarò fuori mi sentirò meglio, mi sentirò più forte. Mi sento alleato con la barca, ora anche lei si fida un po' più di me. Non ho più paura. Fisso il timone con una cima per mantenere la rotta e scendo sotto coperta. La barca sotto è una lavatrice. Ci sono piatti, cime e cibo dappertutto. Tutto si frulla insieme e io con il tutto. Penso che devo farlo adesso. Dovrei ricordarmi di fare una lista. Una lista delle cose che prima mi mancavano. O meglio, le cose preziose che la paura aveva fatto affiorare. Intanto passano una, forse due ore. Il vento ha mollato un po' e di conseguenza anche le onde. Alzo gli occhi e in fondo vedo un raggio di luce che rimbalza sull'acqua. Penso che l'ho scampata. Penso che potrò raccontarla. È bello pensare di esserne uscito. Pensare che le cose non sono mai senza fine. Devo ricordarmelo la prossima volta. La prossima volta che ci sarà una tempesta. Che poi forse le tempeste si possono evitare, però se non lo puoi fare, almeno sai che prima o poi, passandoci attraverso, prima o poi finirà. La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia, scrive Silvia, ma è una citazione di Gibran, non mi ricordo mai come si dice, G o G, e chi lo sa, ma tra l'altro Gibran cos'era, indiano? Niente, benissimo, abbiamo un buco totale riguardo a... però era un santone, filosofo, pensatore, poeta, era un poeta. 349-238-6666, grazie però, ci scrive, e non è Gibran, e non è né una poeta né una filosofa, ma a modo suo lo diventa in questo sms. A volte per uscire dalla tempesta bisogna fare un passo indietro, anche due, scrive Grazia. Oppure, visto che vengono sempre forti, le citazioni, i detti marinareschi, no? Che appena li dici ti senti subito un marinaio col toscano in bocca sul ponte di una nave, e... ecco, me lo ricordo. Aspetta, perché ce ne sono due. Aspetta, uno è il buon marinaio. Aspetta, orca, che figura di merda. Allora, il buon marinaio sa. Ah, ok, il buon marinaio non può cambiare rotta. È il contrario. Il buon marinaio non sa cambiare il tempo. Ma vabbè, ma che schifo detta così. Il buon marinaio non può cambiare il tempo, ma sa quando è il momento di cambiare rotta. L'ho detta, l'altra non la dico, altrimenti faccio una figura uguale a questa. E andiamo immediatamente a sentire il protagonista della storia di oggi, che si è fatto la sua bella tempesta in moto e ne è uscito. Massimiliano, pronto Massimiliano? Ciao Matteo, buonasera. Come stai? Benissimo, grazie. Senti, il tuo accento straordinario, adesso lo indovino, Pistoia. Siena. Ah. Vabbè, cioè, sì, no, che l'avevi detto me lo ricordavo, cioè non me lo ricordavo più, volevo semplicemente fare finta così, che lo indovinavo, invece non l'ho neanche indovinato, figurati. Senti, cosa fai nella vita, Massimiliano? Lavoro in banca. E cosa fai esattamente? Mi occupo di internet banking, quella roba cui tu controlli il tuo conto corrente tramite internet. Per quella banca lì, immagino, no? Siamo a Siena, per quella banca lì. Cioè, credo non esistano altre banche. Quando sono stato a Siena, solo quei bancomat lì, uno che so io, di una banca del Piemonte, non c'è. Ci sono pochissimi nascosti. Perché hanno paura di essere boicottati. Senti, quindi tu non lavori allo sportello? No, lavoro in ufficio. Ma è ancora, perché di fatto il lavoro in banca è sempre stato considerato una sorta di, cioè per una certa generazione come una tappa di arrivo, no? Cioè, a lavorare in banca. Da un'altra generazione invece è stato un modo per dire, dai, io mica voglio andare a lavorare in banca. Adesso invece è ritornato, c'è gente che pagherebbe per andare a lavorare in banca. Sicuramente c'è gente che pagherebbe, perché comunque è quello che si considera un buon lavoro, cioè tutte le sicurezze, lo stipendio di un buon lavoro. E rispetto a quando si diceva no, non voglio lavorare in banca perché la banca è noiosa, perché adesso è un'azienda come un'altra, un'azienda normale, molti meno privilegi di quanti ce n'erano negli anni 70, ma... Senti, ma adesso sei in ufficio, ad esempio, in questo momento? No, sono fuori, sono in macchina. Ma perché hai preso un permesso? Tutto il pomeriggio, sì, ho preso pomeriggio. Tutto il pomeriggio? Sì. Credo che noi siamo la causa principale di ferie e permessi, cioè siamo veramente la causa dell'abbassamento della produttività in questo paese. Probabilmente non dovremmo dirlo a Oscar Giannino, ad esempio. Senti, Massimiliano, quanti giri ti fai in moto simili a quelli del racconto che ci hai mandato? Simili a quelli cerco di farne uno all'anno, perché naturalmente richiedono tanto tempo e non lo nascondo, anche tanti soldi. E poi invece in Europa, in Italia, continuamente faccio 20-25 mila chilometri l'anno. Ma sei un motociclista che prende la moto la domenica oppure per le vacanze, oppure la usi per andare a lavorare tutti non i giorni? Non la uso per andare a lavorare, perché la mia moto non è comodissima per girare in città, è molto ingombrante, non va bene. E la uso tutti i sabati e le domeniche, la uso per tutte le vacanze, il tempo libero. Senti, ma tu hai una famiglia, una fidanzata? Io ho una fidanzata che per questi viaggi resta a casa. Cioè non te la porti dietro? No. Ma perché non vuole lei? Non lei, non se la sente, comunque ci vuole un po' di pelo sullo stomaco, soprattutto dal punto di vista di una donna. Perché sono faticose proprio questi tipo di gite? Questo viaggio qua, per esempio, di cui ti stavo parlando, sono stati 4.500 chilometri in 2 settimane, che vuol dire essere tutti i giorni sulla moto a fare 500 chilometri, in paesi comunque disagiati e poveri, e si fa... Dove le strade di fatto non sono strade, sono piste più o meno, no? Dipende da dove vai, ci sono strade asfaltate in condizioni più o meno buone, e poi ci sono dei tratti di pista. Senti, ma la moto come ci arriva là, scusami? C'è un po' di tutto. Le altre volte ce l'ho portata io, questa volta per risparmiare del tempo la moto ci siamo appoggiati a un'associazione che la spedite? Sì, è arrivata a Casablanca la moto, noi abbiamo volato con amici a Casablanca. Sì, ho capito, Senti, il prossimo viaggio dov'è? Non lo so, il prossimo viaggio non lo so, le cose che mi piacerebbe fare sono dei sogni, vedremo. Dimmi il sogno più grande che speri di fare in moto. Terra del Fuego e Patagonia, fino a Ushuaia, spedire la moto là e poi andare giù. Quanti chilometri sono? 10.000, 8.000. Roba da camionisti proprio. Sì, senti, in quanti siete più o meno a fare queste gite? Questa volta eravamo 7 moto. 7, 8, 10 moto. Senti, invece sto fine settimana la porti da qualche parte sta ragazza, oppure rimanete a casa? 5 terre. No, questo fine settimana partiamo domani mattina, andiamo alle 5 terre. 5 terre, ma c'è bel tempo? C'è bel tempo sabato e domenica? Speriamo. Per ora le previsioni non sono male, ci proviamo. Va bene, Massimiliano, ti ringrazio molto. Grazie a te. In bocca al lupo e per tutto e per i prossimi viaggi. In bocca al lupo a te. Grazie. Ciao, buona giornata. Grazie mille. Abbiamo sentito una storia che parla di mare e parla di vela nella prima parte del Meglio di Voi Siete Qui. Vi ricordo che questo è semplicemente la versione estiva di Voi Siete Qui. Abbiamo deciso di prendere le migliori storie che ci sono arrivate e di raccontarle di nuovo. Andiamo avanti per tutto il mese di luglio. Magari è la prima volta che ascoltate questo programma. Questo è un programma in cui chiediamo di raccontare un episodio della vita degli ascoltatori e di mandarcelo in una pagina all'indirizzo voisietequi@radio24.it.